Bismillahirrahmanirrahim. Primo discorso. Khutba della prima preghiera congregazionale del venerdì nell'Islam. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, sia lode ad Allah. Io lo lodo, lo chiamo in soccorso, gli chiedo la guida. Io credo e non sono ingrato e nutro inimicizia verso coloro che non credono in lui. Attesto che non c'è divinità tranne Allah, l'unico, senza condomini nella sua divinità, e che Muhammad è suo servo e apostolo, il quale è stato inviato da lui con la guida, la luce e l'ammonimento dopo un'interruzione nell'invio di apostoli in un tempo in cui gli uomini vivono in una condizione di poca scienza e di errore, di vicinanza dell'ora e dell'approssimarsi del termine. Colui che obbedisce ad Allah e al suo apostolo è sulla retta via, mentre colui che disobbedisce ai precetti divini ed apostolici è fuorviato in errore e completamente fuori strada. Vi raccomando di temere Allah, poiché la migliore raccomandazione che il musulmano possa fare al musulmano è di sollecitarlo a riflettere sulla vita futura e raccomandargli il timore di Allah. State in guardia riguardo a quelle cose nei confronti delle quali lo stesso Allah vi ha messo in guardia. Non c'è raccomandazione eccellente come questa, né c'è ricordo eccellente come questo. Certamente il timore di Allah per colui che agisce conformemente ad esso con tremore è un valido aiuto per conseguire ciò che voi desiderate riguardo alla vita futura. Colui che pratica il suo rapporto con Allah, sia segretamente che in modo aperto, null'altro desiderando che il compiacimento di Allah, otterrà la fama nel prossimo futuro in questa vita e un tesoro nella vita futura dopo la morte, dove l'uomo avrà bisogno di ciò che ha accumulato in precedenza e preferirà essere lontano da quale che sia altra cosa, ma d'una lontananza enorme. Allah vi ha messo in guardia contro sé medesimo e Allah è indulgente con i suoi servi. Egli è colui la parola del quale è verità. Egli è colui la parola del quale è verità ed è colui che ha mantenuto la sua promessa. Non c'è cambiamento al riguardo. E in vero egli ha detto: presso di me la parola non cambia e io non faccio torto ai miei servi. Perciò siate timorati di Allah nelle vostre cose presenti e future, sia in segreto sia apertamente. A colui che è timorato di Allah, egli perdonerà i peccati e renderà grandiosa la ricompensa. Chi teme Allah trionferà un trionfo superbo. E in verità, il timore di Allah vi salverà dal suo odio e vi terrà lontano dal suo castigo e dalla sua collera. In verità il timore di Allah rende luminosi i volti, soddisfa il Signore e innalza in grado. Così prendete la vostra parte e non trasgredite nella religione di Allah, a proposito della quale Egli vi ha certamente dato insegnamento per mezzo del suo libro, preparando per voi la strada che conduce a Lui. E questo al fine di conoscere quelli che sono sinceramente fedeli e quelli che sono insinceri. Pertanto, comportatevi bene, come si è comportato bene Allah nei vostri confronti. Siate nemici dei nemici di Lui e lottate per il trionfo della sua causa con uno sforzo degno di uno sforzo fatto per Lui. Egli è colui che vi ha scelto e vi ha chiamato musulmani, sicché coloro che devono perire periscano dopo che sono stati dati loro segni inequivocabili. Non c'è né potere né forza se non per grazia di Allah, e vivano quelli che devono vivere dopo che sono stati dati loro segni inequivocabili. Non c'è né potere né forza se non per grazia di Allah. Perciò frequentemente ricordate Allah e agite in vista di quello che c'è dopo la morte. E ciò poiché colui che si comporta bene nella sua relazione con Allah riceverà da Allah un sostegno bastevole a far fronte a ciò che esiste tra lui e la sua gente. E ciò perché Allah esercita la sua autorità sugli uomini irrespingibilmente, mentre essi non hanno alcun potere su di lui. Allah è grande, non c'è né potere né forza se non per grazia di Allah, l'Altissimo, il Sublime. Questa khutba fu tenuta in località Banu Salim, nei pressi di Quba, il 12 di Rabi Ul-Awwal dell'anno primo dell'Egira. A Quba, un villaggio nei dintorni di Medina, il profeta si riposò per qualche giorno dalle fatiche del viaggio di trasferimento dalla Mecca a Medina, la famosissima Egira, vale a dire migrazione, da cui ha preso inizio e nome l'era musulmana, prima di entrare nella nuova sede della sua predicazione dell'Islam. Questa khutba si chiama Khutbatut Taqwa, cioè il sermone del timore di Allah.